Magazine 24, la rassegna dei settimanali. Buongiorno, ben svegliati in questo weekend di giugno. Sono Nino Ciravegna del Sole 24 Ore, starò con voi oggi e domani con Magazine 24. Comincerei subito con la lettura dei settimanali, partendo dall'Espresso. L'Espresso fa una copertina molto decisa, basta con gli sprechi, ed elenca 5 aree su cui si potrebbero intervenire. Sono il Parlamento, i milioni buttati per opere inutili, sanità, gli ospedali KO, dovremmo curarci con i privati, cultura, enti tagliati senza alcun criterio, difesa, spese folli per armi non necessarie, RAI, mega stipendi per star e dirigenti. In particolare l'Espresso si concentra, quando parla di i milioni buttati al vento dal Parlamento, su quelle micro leggine che fanno i parlamentari, soprattutto i parlamentari delle commissioni bilancio di Camera e Senato, che per fare passare le leggi più importanti, in particolare la manovra in questi giorni, mettono come piccoli ricatti quello di poter stanziare fondi per i loro collegi elettorali, ed elenca molti esempi l'Espresso, come la copertura del tennis club di Lecco o 100.000 euro stanziati per una coppa di pallamano presentata in pompa magna in una cerimonia al Senato, visto che era stato un deputato che aveva programmato questa spesa. Nella difesa invece l'Espresso ci si concentra molto su impegni miliardari che erano stati presi al termine della guerra fredda, ma con aerei ed armi molto sofisticate, ma che ora non servono più, che potrebbero non servire più. E cita per esempio il rinnovo delle flotte di sommergibili. Berlino in questi mesi, proprio per avviare o incrementare la politica del rigore, ha annunciato di dimezzare gli ordini per i nuovi sottomarini. L'Italia dovrebbe comprarne altri 2 che costano 350 milioni l'uno. L'Espresso si chiede: non si potrebbe soprassedere o rinviare questa spesa? Sulla RAI è inutile dilungarsi, lo scandalo è sotto gli occhi di tutti. Si va dai 20.000 euro per ogni apparizione del principe Emanuele Filiberto ai 600.000 euro l'anno per Claudio Capon, l'ex direttore generale che ora non ha alcun incarico, pagato profumatamente per non fare niente. Sulla sanità l'Espresso insiste e scrive: con i tagli diminuiranno i medici e si allungheranno le liste di attesa. La qualità delle prestazioni non potrà che peggiorare e i cittadini saranno costretti a rivolgersi alle strutture private. Giudizio molto tranchant anche sulla cultura. Il governo usa le forbici senza criterio, scrive l'Espresso, e senza nessun progetto concreto. Così mette a rischio istituzioni importanti e salva enti inutili. Dagli esperti una bocciatura unanime. Un altro argomento molto interessante su questo numero dell'Espresso è dedicato all'energia. L'Espresso da molto tempo cavalca ricerche e investimenti sulle energie rinnovabili. Questa volta dedica un dossier sempre al sole e al vento e parte raccontando la storia di Frattapolesine, dove su un'area che equivale a 120 campi di calcio sorgerà il più grande parco solare d'Europa, che sarà in grado di fornire energia per 17.000 famiglie. Comincerà a immettere energia a settembre, sarà concluso entro fine anno e permetterà di risparmiare anidride carbonica equivalente a quella prodotta da 8.000 auto l'anno. Su questo argomento delle energie rinnovabili ci dà anche delle cifre piuttosto sia positive ma anche negative. Positive perché l'Italia è al 5° posto come incremento negli investimenti in questo settore, il 5° posto al mondo. L'Italia è al 2° posto in Europa nell'energia fotovoltaica e tra aiuti statali e massicci investimenti, scrive l'Espresso, il business cresce comunque e ovunque, a partire dalla Cina, leader mondiale nelle energie pulite. La Cina, infatti, che pure ha scommesso storicamente sempre sul carbone, di cui è uno dei produttori mondiali più importanti, la Cina comunque sta investendo tantissimo nelle energie pulite, addirittura 32 miliardi all'anno, una cifra colossale se confrontata soprattutto con i 2,6 miliardi che investe l'Italia. Passiamo a Panorama, c'è energia anche su Panorama. Panorama ovviamente scommette sul nucleare e Fulvio Conti, l'amministratore delegato dell'Enel, assicura: con il nucleare avremo una bolletta energetica inferiore del 30% se vi fidate di 14.000 anni di esperienza. Un titolo curioso perché non si capisce cosa voglia dire 14.000 anni di esperienza, e l'amministratore delegato dell'Enel spiega: Sommando la vita operativa di tutte le centrali nucleari, si scopre che hanno lavorato per 14.000 anni con un solo incidente grave a Chernobyl, che utilizzava una tecnologia superata. Conti è anche ottimista, dice che nel 2011 verranno individuati i siti per le nuove centrali in Italia e dice che la gente ha capito, è sicuro che anche l'Italia avrà il nucleare. La copertina di Panorama è comunque invece dedicata alla giustizia, al ministro Alfano con una foto non proprio riuscita e che il ministro promette vi darò giustizia. In particolare, scrive Panorama, il ministro rivendica con forza il suo duro impegno antimafia nel segno di Giovanni Falcone, con beni sequestrati al boss per 11 miliardi in 2 anni, e assicura che da ottobre si partirà con la riforma complessiva, globale e generale e promette una lotta contro tutte le lobby che cercheranno di fermare questa riforma complessiva. Panorama ha anche un altro interessante inchiesta su il mistero della scuola di Via Corridoni. Allora, in questa scuola milanese si sono ammalati di leucemia 3 alunni e la sorellina di uno di questi alunni, con una percentuale altissima se si considera che in tutto l'anno a Milano ci vengono registrati solo 12 casi di leucemia così grave. Il comune, la procura e altri scienziati hanno indagato, ma senza riuscire a venire a capo di questa situazione, di questo giallo che Panorama definisce il giallo inquietante ma senza soluzione. Difatti non sono riusciti a capire cosa sia successo in questa scuola. Hanno analizzato l'acqua, cibo, solventi, onde elettromagnetiche, ma nessuna soluzione. Un'ultima notizia che vi segnalo da Panorama riguarda i genitori. Il titolo è Bamboccione Bamboccione. Racconta di un padre separato che si è rifiutato di versare i 1.000 euro al mese per il mantenimento del figlio, dicendo che a 20 anni frequenta ancora la terza ragioneria dopo essere stato bocciato 2 anni consecutivamente, e il tribunale gli ha dato ragione, anche se la Cassazione per più volte ha ribadito che i figli devono essere mantenuti anche quando diventano maggiorenni. In questo caso però il giudice ha riconosciuto che il padre ha tentato più volte di stimolare il figlio a studiare, è arrivato al punto di offrirgli un lavoro che il figlio ha rifiutato e quindi ha detto basta, stop all'assegno di mantenimento. Potrebbe essere una sentenza che cambia molto la situazione in Italia, anche perché la mamma ha subito annunciato un ricorso dicendo che dopo questa sentenza i padri potrebbero non pagare più l'assegno di mantenimento al primo problema del figlio. Vedremo come andrà a finire. Certo che mantenere un figlio che a 20 anni fa ancora la terza superiore è un bel problema. Donna Moderna è il settimanale che ti facilita la vita, così si presenta. Racconta un esperimento che hanno fatto comprando la pillola abortiva su internet, ma per fortuna consiglia non fatelo. Da più di 2 mesi, scrive Donna Moderna, è stata autorizzata la pillola, ma in molti ospedali, in molte regioni non è introvabile. Noi abbiamo provato a comprarla online e non è molto difficile, però l'acquisto è illegale e prenderla senza controllo medico è molto pericoloso e i rischi che contenga sostanze dannose sono molto alti. Un'altra cosa che ha fatto Donna Moderna, cioè hanno fatto sfilare i giocatori del Porto Gruaro, che a sorpresa è stato promosso in Serie B, e li hanno utilizzati come testimonial sia di una sfilata di moda sia come previsori dell'andamento dei campionati di calcio. La cosa più divertente probabilmente di questo numero di Donna Moderna è il tempo giusto, e hanno fatto tutta una serie di statistiche per cui si dice: quando conviene comprare le scarpe? Nel primo pomeriggio si curano perché i piedi sono un po' gonfi, quindi le scelte saranno fatte scegliendo dei modelli più comodi. A che ora si evitano le code in banca? A metà mattina di una metà settimana consigliano, evitando di andare quando la banca appena aperta o nell'orario di chiusura. Quando sposarsi risparmiando? Consigliano in inverno, quando i pochi chiedono fiori e servizi di catering. E poi la domanda fatidica: qual è l'orario giusto per chiedere un aumento? Donna Moderna consiglia alle 17, quando la giornata lavorativa sta finendo, quando il capo ufficio è meno impegnato e di ottimo umore perché sa che sta per andare a casa. E poi scrive: in questa fase della giornata c'è anche un vantaggio per voi. La temperatura sale rendendovi maggiormente lucidi e reattivi e quindi più pronti a sostenere la vostra causa. Francamente non sappiamo se funziona, ma tanto vale provarci. Magazine 24. Bentornati, riprendiamo con la lettura delle riviste. Comincerei con Il Mondo. Abbiamo visto che Panorama e L'Espresso hanno dedicato molto spazio all'energia. Anche Il Mondo si focalizza su questo tema, raccontando i progetti della famiglia Garrone, che vuole investire 1 miliardo nel solare. Ma l'inchiesta della copertina del Mondo è dedicata a quanto ci costeranno l'allarme dei debiti, non solo di Grecia e Spagna, ma anche dei paesi dell'est. E Il Mondo scrive: il peso dei debiti nei paesi dell'est, si estende l'allarme nel vecchio continente, sotto osservazione gli emergenti europei come Ungheria, Bulgaria e Lettonia. L'analisi di questi paesi, che sono piuttosto deboli economicamente, si conclude con un'osservazione del Mondo che dice che però i risparmiatori italiani hanno anche la possibilità di guadagnarci qualcosa. E ha intervistato parecchi gestori di fondi e di hedge fund che consigliano, per diversificare il portafoglio, di puntare su Polonia, Russia e Turchia. Non so quanto sia rischioso, quanto conveniente questa scelta, vedete voi. Più tranquilli invece sono gli investimenti che consigliano sul mercato interno i colleghi del Mondo, quando hanno fatto una classifica delle società senza debiti con una posizione finanziaria netta, e al primo posto hanno Jewis, che non a caso da inizio anno è aumentata del 54%, mentre Intech è cresciuto del 46%. Conviene sempre investire sulle società senza debiti. Sempre sul Mondo c'è anche un articolo con allegata tabella molto divertente sui padroni degli stipendi. Parla dei comitati per definire le remunerazioni dei vertici. Ci sono dei signori che vengono pagati per decidere quanto pagare gli altri, che è molto divertente perché è una funzione nuova e probabilmente anche molto delicata, per cui chi decide che Profumo deve guadagnare 4 milioni rotti all'anno, o il presidente di Telecom quanto deve guadagnare? Ci sono questi comitati composti da persone, da esperti, da consulenti e roba del genere, che appunto come mestiere prendono queste decisioni e soprattutto vengono pagati anche per fare questo. Passiamo ad Altro Consumo. Altro Consumo, questa cosa curiosa, ha messo a confronto 20 birre, analizzando prezzi, malto, fermentazione, acidità, colori e altri parametri, e per la cronaca, in cima alla classifica, a pari merito si collocano la Kronenbourg, Stella Artois, Nastro Azzurro e Heineken. C'è anche lì un lungo servizio su costi e risparmi dedicati a chi vuole installare pannelli solari in casa. Facciamo adesso un salto all'estero con Newsweek. Newsweek dedica la copertina al new Putin, al nuovo Putin. Un Putin che si cerca di darsi una riverniciata democratica denunciando i crimini di Stalin. È sempre giusto parlare dei crimini commessi da Stalin, purché non sia fatto per fini propagandistici, come invece sottolinea Newsweek. Newsweek mette sotto accusa anche l'utilizzo politico del business che sta facendo Putin, che premia gli amici o gli stati allineati e prende per la gola chi invece non è molto amico, soprattutto le tante repubbliche nate dalle ceneri della ex Unione Sovietica. Vi segnalo un'altra inchiesta di Newsweek, è sul Globish, questa sintesi tra English e Global, e come internet sta cambiando il linguaggio di tutti noi. C'è questa specie di nuovo esperanto, una lingua che vale per tutti, e la fa incominciando a raccontare di come i giovani blogger cinesi mischiano inglese e mandarino. Ed è anche interessante e curioso che metta a confronto frasi in inglese classico e Globish. Le differenze sono notevoli. L'Economist invece, che è probabilmente la copertina migliore della settimana, con una foto di Obama sulle spiagge della Louisiana devastate dal petrolio della BP, titola su Obama versus BP. Racconta questo dramma visto da Londra, visto dalla BP. Non a caso accusa un po' la furia giustificabile contro BP sta degenerando, scrive l'Economist, contro i grandi business e le grandi compagnie. E la BP fa i conti finanziari e anche politici dopo il disastro del Golfo del Messico. Un'altra cosa che segnalerei è un inserto di 4 pagine su Genoma.2, che fa il punto sulle ricerche, l'avanzata della Cina anche in questo campo, che è fondamentale per la salute e per la ricerca biomedica, e fa anche il punto sulle promesse miracolose che sono mancate, ma anche le applicazioni prossime venture. Passiamo a Gente. Gente dedica la copertina a Federica Pellegrini, la campionessa del mondo di nuoto, che dice: il mio cuore batte azzurro, e racconta come tifa per i mondiali e quali sono i suoi rapporti con il calcio. C'è poi una guida agli animali d'estate, dove e come portarli in vacanza, una cosa sempre utile visto che molti turisti o potenziali turisti abbiamo cani e gatti e non sappiamo mai dove portarli, perché molto spesso gli alberghi li rifiutano, in spiaggia sono vietate. E poi però c'è anche una inchiesta seria sullo scandalo dei bambini schiavi. Scrive Gente: dopo la morte di 110 piccoli minatori in Nigeria, viaggio nel commercio più disgustoso del mondo. E fa vedere delle fotografie molto impressionanti di questi bambini che lavorano nelle miniere. Le ultime vittime, scrive Gente, sono state avvelenate dal piombo di una miniera ai confini del deserto. Come loro, a centinaia di milioni vengono sfruttati nelle cave, come domestici o negli eserciti. I numeri agghiaccianti di un crimine mondiale. Ed è veramente impressionante vedere queste fotografie, perché sono molto più eloquenti di tante parole. Allegato a questo numero di Gente c'è anche Gente Motori, dove è stata provata con una lunga test di prova la nuova Giulietta, che viene promossa a pieni voti dai piloti che l'hanno provate in condizioni estreme. Chiudiamo questa trasmissione con Auto, il mensile che si presenta con un progetto piuttosto rivoluzionario per i giornali. Dice: piacere, Volvo in 3D. Allegati al giornale si trovano degli occhialini, quelli che una volta si usavano per vedere il film in tre dimensioni, e qui assicurano che in esclusiva la prima prova a tre dimensioni per un'auto, la Volvo S60, che grazie agli speciali occhiali potrete vederla dentro, fuori e in profondità. Non mi esprimo sui risultati, lascio a voi il piacere di provare questa soluzione. Sempre su Auto troviamo poi un'analisi del nuovo codice della strada, che viene definito assai poco chiaro. E scrive Auto: il Senato ha impiegato quasi un anno per produrre 102 emendamenti al testo che la Camera aveva approvato nell'estate 2009 e che sarebbe dovuto andare in vigore prima del giugno scorso. Ora si dovrà tornare alla Camera e, lobby permettendo, per agosto avremo il nuovo codice della strada, forse, ed elenca tutti i cambiamenti con cui dovremo fare i conti durante quest'estate. E sempre sul mensile poi troveremo le novità del settore automobilistico, che in questo momento sta andando assai male dopo la fine degli incentivi. Comunque l'industria non si ferma, quindi si parla della nuova Citroën C4, la nuova Porsche 911 e la Toyota Plug-in, che funziona con le batterie e con la ricarica a una normale rete elettrica. Troviamo infine una panoramica sulle auto che arriveranno in questa seconda parte dell'anno. In particolare vi segnalo la nuova Panda, che dovrebbe uscire a fine anno con i motori bicilindrici, e anche una 500 in autunno, sempre con motori bicilindrici di tecnologie innovative. È prevista inoltre quella che il mensile Auto definisce la rivoluzione francese: l'arrivo di nuovi modelli che nascono in casa Peugeot e Citroën con motori e modelli originali, grazie anche alla collaborazione con Mitsubishi e BMW. Quindi ci sono almeno 8 modelli che arriveranno nei prossimi mesi con un mix di tecnologie. Non più ogni singola casa fa tutto, ma c'è una contaminazione di esperienze, di attività con altri gruppi, con altre esperienze, con altre fasce, per arrivare a un mercato sempre più miscelato tra stile, design, tecnologie e tradizioni. Sarà un bel movimento e probabilmente coglieranno la ripresa che, dicono tutti gli esperti, incomincerà solo nel 2011. Questo è tutto, vi ringrazio dell'ascolto. Magazine 24 torna domani. Un saluto da Nino Ciravegna, grazie.